stanno a ridi. Sì, stop, stop. 3, 2, 1, ridi. Ridi, ridi, di più, sfogati. Ma non tossi, non te l'ho detto, rispondi, te l'ho detto di tossire? Sforzo a ridere e poi tossisci. Tossisci. Stop, ridi. Dai, ridi. Non tossire, prova a resistere. Ammazzati, ma resisti. Adesso, ma ridi. No. Già, ma non vergogna, ridi. Ridi, dai, di più. Di più. Sì, pesa la panca, ma di bobino, cioè, pesa. Vai. Pesa. Non ridere. Tossisci. Fai un tossiso, un tossito. Ridi, più a lungo. Che cazzo? Ridi. Vuoi ridere? Tossisci! Oh. Va bene? L'acqua naturale. Sottotitolo. Poi? Io sulle... Ridi. Prova. Cresci. Tossisci adesso! Così! Di più! Di più, tira fuori la laringe dalla bocca. Laringe. Hai pensato alla lava, testa no, di cazzo? No. Come no? No. Tossisci allora. Io avevo pensato. Ah, sì. No, ma tossisci comunque. Tossisci. Ridi. Ridi. Tattieni la sfo. Dai. Stop.